voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Speciale premio Alberto Falck. La puntata di Voci d'impresa di questa settimana è dedicata al premio Alberto Falck, che ogni anno viene assegnato dall'Associazione Italiana che riunisce le imprese familiari, l'AIDAF. A Voci d'impresa, che ormai da 5 anni racconta le storie delle imprese italiane gestite da imprenditori o famiglie, questa settimana parliamo dell'azienda che ha vinto il premio, la Illy Caffè, e vi facciamo ascoltare la voce del presidente di Illy Caffè, Andrea Illy, al convegno nazionale delle aziende familiari che si è tenuto a fine settembre a Genova. L'azienda è stata fondata nel 1933 da nostro nonno Francesco, ungherese, un personaggio che non ho avuto l'onore di conoscere, ma direi piuttosto interessante. Un personaggio che se n'è andato da casa a 14 anni perché era stufo di vedere i genitori che litigavano, quindi se n'è andato a Vienna, faceva l'amministrazione di 2 o 3 società per campare, e poi come soldato è venuto a Trieste e ha trovato i 3 amori della sua vita: la città di Trieste, la sua bellissima moglie e il caffè. E lì è rimasto. Oggi alla guida c'è la terza generazione e l'azienda si è strutturata con una forte presenza sui mercati esteri. La capogruppo Illy Caffè S.p.A. controlla 10 società dedicate alla distribuzione sui mercati internazionali, in tutti e 5 i continenti: Europa, Medio Oriente, Asia e Oceania, Africa e Americhe, sulle orme del nonno. Quindi il nonno ha fondato l'azienda in una città che all'epoca era molto cosmopolita, quindi molto, diciamo, una sorta di piccola New York. Ha fondato l'azienda con un'idea molto semplice: faremo il migliore caffè del mondo e lo venderemo in tutto il mondo. Ci stiamo ancora lavorando perché è una missione che è senza fine. Il miglioramento qualitativo non ha limiti e l'espansione nei mercati non ha limiti. Oggi siamo presenti in 140 paesi, quindi possiamo essere considerati un'azienda globale, ancorché tascabile. Quasi 60% delle nostre vendite, credo il prossimo anno, vengono da mercati fuori dall'Italia. Siamo presenti in circa 100.000, negozi che ci rivendono con wholesale. Si servono circa 6 milioni di tazzine Illy nel mondo ogni giorno. Il gruppo è formato da 800 dipendenti diretti e circa 1 migliaio di collaboratori, e siamo controllati come Illy Caffè dalla holding di famiglia che si chiama Gruppo Illy. Tra le motivazioni del premio, la capacità di gestire in maniera equilibrata alcuni degli aspetti più critici nelle aziende familiari, quello del passaggio generazionale e della gestione aperta all'intera famiglia, che in questo caso ha visto la creazione, oltre alla holding, di un patto di famiglia. Alla governance del gruppo Illy è lì che si concentra tutto l'impegno della famiglia, quindi la famiglia è presente nel consiglio di amministrazione nella sua interezza, con 2 membri del consiglio di amministrazione esterni che sono un po' degli advisor, quindi persone che ci danno un certo valore aggiunto, e tutta la governance del gruppo Illy è regolata dal cosiddetto patto Illy. Patto Illy è un classico patto di famiglia ed è il patto nel quale abbiamo individuato non soltanto i nostri valori guida, ma abbiamo anche identificato tutte le regole sia di comportamento che di accesso alla carriera, di percorsi di carriera, di lealtà, tutto quello che classicamente si inserisce in questi patti. Dal patto poi, una volta identificate queste regole, quante più possibili di queste regole sono state recepite a livello di strumenti giuridici importanti, quali gli statuti delle società oppure dei patti parasociali, e quindi riteniamo di aver fatto un lavoro piuttosto completo, quanto più completo si potesse fare. Il tutto è alimentato dal cosiddetto consiglio di famiglia, nel quale ci vediamo con una cadenza bimestrale, tutti quanti, compresi anche i ragazzi della quarta generazione che hanno raggiunto la maggiore età, dove discutiamo di tutti gli aspetti, di condivisione del business, degli orientamenti, dove andare, prendere le macro decisioni, ma anche discutere degli aspetti fondamentali, quali le carriere e così via. La Illy Caffè ha avuto nel 2010 un fatturato di 305 milioni di euro e nel 2011 dovrebbe superare i 330 milioni. La scelta strategica è stata quella di un posizionamento nella fascia alta del mercato. Metaforicamente dico sempre che non vogliamo essere la stella più grande, questo appartiene ai nostri colleghi, amici delle multinazionali, noi vogliamo essere la stella più brillante, quella con la luce più pulita, insomma la stella polare un po' del mondo del caffè, e devo dire che ci sta riuscendo, insomma apparentemente siamo apprezzati per quello che facciamo nel mondo. E quindi attraverso questa ricerca di essere il punto di riferimento della cultura, sviluppare i migliori prodotti, e offrire la migliore esperienza di consumo e quindi diventare il leader del segmento di alta gamma. Il caffè non è l'unico settore di interesse dell'azienda, che si sta muovendo anche su altri prodotti per organizzarsi per il futuro. 6 o 7 anni fa abbiamo deciso di fare di più e quindi iniziare un percorso nelle diversificazioni, in modo da cercare di, anche in funzione della preparazione per le prossime generazioni, di diversificare e quindi entrare in altri settori, cosa che abbiamo fatto a partire dal tè con un'azienda che si chiama Daman, dal cioccolato, cosa che abbiamo fatto con un'azienda che si chiama Domori. Siamo entrati nel mondo dei soci di minoranza, in questo caso di un'azienda bellissima, agrimontana, che fa prodotti a base di frutta, e poi abbiamo fatto anche l'ingresso nel mondo del vino, un primo assaggio se vogliamo, con una bellissima casa vinicola Mastroianni a Montalcino. Anche nel settore del caffè la Illy non si occupa soltanto del prodotto. Abbiamo deciso di abbracciare tutto ciò che contribuisce al risultato finale, quindi purtroppo non ci possiamo limitare al solo caffè, ma dobbiamo anche occuparci di tutto ciò che contribuisce alla preparazione, al servizio, all'ambientazione. Quindi abbiamo anche il know-how sulle macchine da caffè che disegniamo, progettiamo e industrializziamo. Abbiamo anche una fabbrica di produzione di macchine da caffè, oltre a quelle che facciamo fare ai nostri partner, ma quello è un'area, diciamo, di l'education di cui ho già citato, con l'Università del Caffè, e stiamo anche gradualmente diventando retailer attraverso la nostra catena di bar autentici italiani che stiamo portando in giro per il mondo, che si chiama espressamente Illy, che ha ormai circa 250 locali in giro per il mondo. Le linee di distribuzione del prodotto sono diverse, strutturate su 4 settori. L'azienda opera in 4 aree strategiche di affari: l'Horeca, quindi hotel, ristoranti e caffè, che è quella storica, che pesa circa il 55% della cifra di affari; l'alimentare, attraverso distribuzione tradizionale, moderna ed e-commerce, che pesa un altro 35% della cifra di affari. Operiamo nel campo del workplace, quindi del office coffee service, sia con il vending che con appunto l'office coffee service, e recentemente la 4ª area strategica di affari che abbiamo varato è l'outdoor o on the go, con un prodotto ready to drink che facciamo in joint venture con la Coca-Cola. Poi c'è il tema della ricerca su un prodotto apparentemente semplice, ma in cui abbiamo scoperto concorrono 1500 sostanze chimiche e oltre 13 variabili chimico-fisiche. C'è moltissima ricerca, tutto parte dalla ricerca, il prodotto nasce dalla ricerca scientifica. Io medesimo sono chimico, mio padre è stato chimico e mio nonno è stato inventore. La grande ricerca che facciamo interdisciplinare nel campo della biologia e dell'agronomia, quindi con il Biolab, nel campo dell'analisi sensoriale, non solo con la parte della degustazione ma anche con le neuroscienze, nella aromi, quindi abbiamo un laboratorio che analizza tutti i 1000 aromi del caffè, sia nel caffè verde che in quello tostato che in quello in tazza, e quindi facciamo, e infine il Tech Lab, che si occupa di engineering e che produce anche tutte le nuove tecnologie. Il risultato di tutta questa ricerca è che su 8 innovazioni radicali che ci sono state nel campo del caffè, 3 sono nate in casa Illy. La medesima formula dell'espresso, come tutti conosciamo oggi, con l'acqua a 90 gradi e 9 atmosfere, è stata messa a punto per la prima volta da mio nonno Francesco con la Illetta nel 1935. La seconda grande innovazione è stata la pressurizzazione, al fine di esaltare gli aromi del caffè. Pressurizzare, quindi, vuol dire estrarre l'ossigeno dalle confezioni e risostituirlo con gas inerte ad alta pressione. Ed infine la prima cialda di carta, sistema monoporzione per la preparazione dell'espresso è stata sviluppata in casa Illy. Infine, il tema della sostenibilità, particolarmente forte per un'azienda che produce in zone povere del mondo. Il sistema messo a punto dall'azienda negli ultimi 20 anni prevede l'acquisto direttamente dai coltivatori, aggiungendo alle quotazioni di mercato un margine che garantisca il guadagno al coltivatore per ricompensare la maggiore cura e per dare un incentivo a non abbandonare la terra. E poi la formazione, con l'Università del Caffè, che ha raggiunto i 20.000 corsisti in 25 paesi. Quindi abbiamo fondato una Università del Caffè, che esiste da 10 anni, che ha formato ormai più di 60.000 persone, che è organizzata, come vedrete, in 3 dipartimenti, per i produttori del caffè, per gli esercenti, i nostri clienti, e per i consumatori, che ha ormai un programma che arriva fino a un Master in Coffee Science and Economy, che è un postgraduate nel quale si preparano le future generazioni di professionisti del caffè. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.